basta! Evelina, la papera carina, con la passione per la televisione. Maria Teresa, la pecora gentile, sente il lupo nel cortile, fuggi fuggi nell'ovile. Una cornacchia fa la macchia sullo specchio, poi dispiaciuta la pulisce con il becco. Con uno spicchio d'arancia nella pancia, spiccicava una parola nella lingua dell'Angola. Vinto segue il consiglio della mamma, lascia la chitarra per abbracciare l'arma. Il ministro delle teledipendenze dice: compra qua, spendi là, che la borsa in alto va. Basta, è finita la festa. Basta, che mi gira la testa nell'ovile delle vanità. Ma che divertimento, quanta bella libertà. Sceriffo americano non lo sa, ma quando parla ride tutta la città. Ville Pellone viene a singola attenzione, unza unza un papà, troppe truppe maniscià. Non ci voleva l'eruzione della lava, e due piccioni si contendono la fava. Sposa bagnata, bambina svergognata, la questione è delicata come bolle la patata. Basta, è finita la festa. Basta, che mi gira la testa nell'ovile delle vanità. Ma che divertimento, quanta bella libertà. Quanta bella libertà.